avventurieri. È proprio la stessa fessura e dall'altra parte c'è l'eremita. È ancora lì, immobile. Aveva davvero solo l'intenzione di aiutarvi. Per aver ignorato il suo gesto e scelto un cammino più arduo, subite una penalità. Perdete punti salute.